Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per oggi con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi parliamo di una vicenda che nei social l'Adico ha già raccontato, ma lo facciamo anche attraverso il mezzo radiofonico, ed è una vicenda di un pensionato mestrino che è andato a ritirare dalle poste dei soldi, e tra questi c'era la sorpresa. Sì, una vicenda che abbiamo già pubblicato sui social e che sta anche scatenando un po' l'ironia di questa vicenda, perché come tu hai anticipato si tratta di un pensionato che è andato alle poste a ritirare dei soldi per pagare una fattura dal meccanico che aveva portato l'auto a riparare, e in occasione del pagamento della fattura 100 euro di questi prelevati sono risultati dal dispositivo in dotazione del meccanico falsi, e di qui è iniziata tutta la saga. Ecco, allora raccontiamola bene, anche perché mi viene da pensare, ma i soldi li ha ritirati dal bancomat o è andato dentro nell'ufficio postale a prenderli? Allora, l'uomo è andato dentro l'ufficio postale, ha prelevato 700 euro perché doveva fare delle spese e versare 290 euro dal meccanico, appunto perché l'aria condizionata dell'auto era rotta. Quando è andato lì a pagare è successo che ha utilizzato due di queste tre banconote da 100 euro che ha ricevuto, mm-hmm. e una di queste due è risultata al controllo del dispositivo falsa. Dopodiché l'uomo è tornato alle poste per segnalare la cosa con la banconota falsa, e invece di ricevere una sostituzione della banconota ha ricevuto un rinvio di notifica della banconota ricevuta, che nel frattempo si è trattenuta alla posta, perché in questo caso vengono analizzate da una specifica commissione della Banca d'Italia. La risposta doveva avere il 15 novembre, e invece qualche giorno fa è stato notiziato che la banconota, essendo risultata tale, non gli viene restituita, e per cui si trova una manco da 100 euro. Ecco, quindi alla fine questa persona come dire, ha perso i suoi 100 euro e non c'è stato verso, insomma, è come se lui li avesse consegnati alle poste e non viceversa. Sì, il paradosso è che essendo che li ha prelevati dalle poste, quindi possiamo immaginare appunto anche lo stupore anche nostro, perché chiaramente loro che sono i primi a dover controllare le banconote se sono false o meno, le hanno praticamente riciclate, e paradossale come alla fine scopriamo che di tutta questa vicenda, come sempre, quelli che restano beffati sono i consumatori finali, quando alla fine la persona si è comportata anche in maniera veramente egregia, perché invece di riciclare a sua volta ha pensato bene a fare il suo dovere da onesto cittadino e restituirli segnalando la cosa. E questo è stato un po' il risultato con cui il signore è stato appagato di tanta onestà, di tanta buona volontà, che certamente ci mette anche noi in condizione di essere qui e raccontare questa beffarda vicenda che ha veramente dell'incredibile. Che cosa possiamo aggiungere? Cosa si potrebbe fare? O voi come ufficio dedicato a queste problematiche, cosa potreste fare? Vabbè, noi adesso chiaramente, avendo ricevuto la segnalazione del signore che è venuto all'Adico a raccontarla, abbiamo affidato la gestione della pratica al nostro ufficio legale, il quale adesso ha intimato subito alle poste un chiarimento, ma anche la restituzione dei 100 euro. Chiaramente una vicenda che comunque non rimarrà circoscritta solamente nell'area di Mestre, ma che sicuramente deve e andrà ai piani alti, perché non è pensabile questo tipo di comportamento da parte delle poste nei confronti di un loro utente che alla fine non ha nessuna colpa se non essersi comportato onestamente. E staremo a vedere, quindi ricordo che c'è sempre la possibilità di contattare l'Adico in qualsiasi momento, c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it dove poi trovate anche i numeri di telefono. Cosa potremmo consigliare quindi per evitare questa cosa? Utilizzare i pagamenti elettronici? Ma generalmente sì, ma ricordiamoci che questo è un signore che ha 75 anni, in pensione, quindi è un po' anche abituato alla vecchia maniera a ricevere la pensione che è accreditata sul conto corrente, andarsi a prelevare il contante che è un po' il suo fabbisogno mensile e poi sopperire a quelle che sono state appunto anche gli imprevisti come una riparazione dell'auto. Certamente, ecco, il ruolo dell'associazione, anche per completare la risposta di prima, andrà ai piani alti, perché noi come associazione conosciamo anche dei canali e abbiamo anche dei contratti per questo genere di controversie che insomma negli anni si sono consolidati. Però è anche vero che bisogna anche individuare chi è stato il responsabile di questo disagio, perché non è permesso che si possa lavorare in questo modo, e parlo per conto di Poste. Consigli da dare, certamente il bancomat e i pagamenti elettronici risultano sempre i mezzi più affidabili, però ecco, non possiamo neanche scartare l'ipotesi che insomma di trovarci in una situazione del genere. Certo, può capitare, evidentemente il signore ha fatto la cosa proprio più giusta, perché a sua volta se avesse tentato di spacciare quei 100 euro da qualche altra parte, ovviamente sarebbe passato dalla parte del torto, e poi ci sono anche conseguenze che vanno nel penale. Grazie quindi a questa bella storia che ci ha raccontato l'Adico, ancora una volta grazie al presidente Carlo Garofolini, a tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.